innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza. La Baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali è la distanza, e poi ci si consola con la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Brianza, uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, no, no, non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza, e per resistere c'è la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. E che mi ami, quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso molto meglio se rimani, se rimani, a domani. Dimmi che ci tieni, pure se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri. La titola di tu, la titola di tu, la titola di tu, la titola di tu. Dov'è? Tutti si chiedono dove, dov'è, ma non mi trovano. Ma sai che c'è? Che sto benissimo, intanto che sto a piede libero. Poi perché ritornare da lei, quando per lei è sempre stato meglio senza di me? Non riusciranno a prendermi, io resto. Que se vaya con la pitanza, con prudencia y elegancia y con un lento movimiento de panza. Yo abito, abito y te faccio un illecito. Se no sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito, gli anni stessi consigli. Siamo uomini liberi, siamo uomini liberi. Stiamo comodi, comodi sulle spoglie di Rimini, sulle spiagge di Rimini, sull'attolo di Bimini. La viviamo da anni, gli anni solidi, gli anni. Vediamo l'abito tanto quando capiti a tanto. Io abito, l'abito, mica faccio un illegito. Se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito dei miei stessi consigli. Siamo uomini liberi, siamo uomini liberi. Stiamo comodi, comodi sulle spoglie di Vimini, sulle spiagge di Rimini, sull'attolo di Bimini. Latitiamo da anni con i soliti inganni.